La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Ringrazio con una mano sul cuore una ascoltatrice che si firma L'Allieva e che ha di me una nostalgia retrospettiva, ovvero dice che avrebbe voluto incontrarmi per caso a Parigi negli anni 30. Beh, ti ringrazio. La grazia di una dichiarazione d'amore è di essere inaudita, e la tua lo è. Oh, poi ringrazio Gabriele per una lettera che lui mi ha scritto, che io so, ma che è inutile che leggiamo alla radio, perché è molto personale. Sappi solo che mi ha rallegrata infinitamente. Buona giornata a Paolino, il re dei riduttori. Paolino mi scrive: voglio considerare che io impongo, in veste di capo, di ascoltare la sua trasmissione in un'officina metalmeccanica circondata di, virgolette, rozzi e grezzi figuri, chiuse virgolette, almeno quanto me, che ne sono il capo, che già di loro lavorano la domenica mattina e mi sfottono per la mia passione nei suoi confronti. Quindi immagina se lei potesse salutarmi, quale rivincita sarebbe per me. Buona giornata a Paolino, il re del riduttore. Lo ripeto, ma veramente, Paolino, in una officina di metalmeccanici tu costringi questi omoni ad ascoltare le mie follie? Tra l'altro, io ne sono, da una parte, onoratissima. Il reazionario e il rivoluzionario che sono in me fanno a botte, non si mettono d'accordo, perché una parte è contentissima che tu li costringa. La parte più populista dice: ma come? Ribellatevi, ribellatevi a Paolino, il re del riduttore. Anche perché, da quando ho letto i libri di Pennacchi, per me i metalmeccanici sono come gli eroi dell'Odissea, così come lui li descrive in libri tipo Mammut, questi giganti che dominano le macchine, simili agli operai anche dei quadri di Leger. Quindi ringrazio te e buongiorno anche alle vittime di Paolino, il re dei riduttori. E poi una delle tante lettere che mi sgomentano. La mia omonima Barbara mi annuncia un libro, la mia storia, i miei ultimi 5 anni, e mi chiede se le mando la mia storia, i miei ultimi 5 anni, valuterebbe cosa si può fare per il bene di tutta l'umanità? Mi sgomenti, Barbara. Io riesco a stento, e non sempre, a fare del bene a me stessa. E quindi ti prego, non riporre su di me questa fiducia che mi schiaccia. Io sono soltanto un cantastorie. Ugualmente, Adamo Luciani, che mi scrive: vorrei esporre i miei quadri, gli escrementi delle mie emozioni passate e presenti, che, scusa, già non è una grande presentazione. Dice: non sono bravo a vendere me stesso. Mi aiuti a fare ciò, nel senso ad organizzare una mostra con il tuo patrocinio. Ora, scusa, io credo che tu mi scambi per un'altra. Per fare questo, bisogna far parte veramente di una società potente. Bisogna essere, non so, Marta Marzotto, persone che hanno fatto vita di relazione. Ci vuole di fare vita mondana, ci vuole anche di avere del tempo. Io non ho né potere né tempo. Quindi ti prego, trotta e fatela da solo la mostra, perché io credo che se uno ha lo slancio per fare dei quadri, magari gli dovrebbe bastare anche, non per vendere se stesso, ma almeno per proporsi. L'idea che qualcun altro debba farti da padrino o da madrina e credere nella tua arte più di te, scusami, lo trovo incomprensibile. E poi, per motivi che sappiamo lui ed io, ringrazio molto Davide Adler. E mi piacciono anche molto quelli che mettono il cognome. E poi una lettera che mi inquieta più delle altre, perché non capisco bene che cosa voglia Rosanna e ho paura che mi abbia preso per un taumaturgo. Allora, da qualche mese invio commenti su un blog di un reporter di guerra svizzero. Negli ultimi giorni altre persone hanno commentato la morte degli ultimi giornalisti uccisi. Io purtroppo vorrei commentare con qualcosa di sensato, ma sono bloccata e mi dispiace. Mi aiuteresti tu? Una frase semplice ma con il cuore. No, io non ho capito. Tu vuoi che ti scriva una frase per far finta che sia tua? Ma io non le faccio, io non le faccio. No, io non capisco cosa sia questa sete di tutela. Scusa, tu scrivi. E quindi scrivi. Se una cosa non ti viene, non la scrivi e basta. Sai cosa faccio quando non riesco a scrivere una cosa? Mi faccio un giro. Io non ho mai subito l'umiliazione di stare più di mezz'ora infruttuosa davanti a un foglio. Me ne vado, la vita prende il sopravvento, vado a fare una torta. Così consiglio anche a te. C'è il vento, c'è l'aria, c'è il carbon fossile. Oh, rispondo brevemente a Francesco dall'America Russo. Non so se è uno pseudonimo, ma se è un cognome è molto attraente. Il quale scrive: ma chi è quel genio che ha scelto come colonna sonora del racconto su Giovanna d'Arco la canzone Smog It's in Your Eyes? E la stessa cosa scrive Angie Maccari da Padova. Grazie Francesco e grazie Angie. Ma io me lo prenderei volentierissimo questo elogio, soltanto che non mi spetta e sono troppo vanitosa per essere elogiata per una cosa che non ho fatto, quindi lo passo a Gloria Guerrera, perché è lei che sceglie le musiche della Guardiana del Faro, e questa in particolare. Io mai avrei pensato di scegliere Smog It's in Your Eyes per Giovanna d'Arco, e invece le sceglie lei, aiutata da Alessandro Chiappini, spesso contro la mia volontà. Ed è stata una bella ispirazione, trovo, accompagnare la storia della pastorella guerriera con questa musica così romantica, perché la santità è romantica, il contrario di sentimentale. Io mai avrei pensato a Smog It's in Your Eyes, l'avrei trovato troppo audace, però ascoltandolo poi mi è piaciuto. La Guardiana del Faro. Nella bottiglia per Barbara Alberti. Ho conosciuto lui, un uomo più grande di me di 10 anni. Bello, colto, affascinante, celibe e tante altre cose. Ci siamo messi insieme. Eppure, quando mi ha detto che mi voleva solo bene, non soltanto non l'ho lasciato, ma ho fatto di tutto per avere un figlio nostro. E ora, invece d'essere al massimo della gioia, penso in continuazione, ora che vivo con quest'uomo, che l'amore del quale sono da sempre innamorata da parte sua forse non verrà mai. E la gelosia dove la mettiamo? Lo immagino fra le braccia di altre donne. Lui dice che sono cose che non contano e mi viene da piangere. Mi guardo il pancione e piango. Piango e mi odio. Simona. Ecco, io vorrei incontrare un filologo che fosse in grado di spiegarmi l'abominevole equivoco linguistico del volere solo bene contrapposto al fatto di amare. Ma come solo bene? Volere bene a qualcuno è il massimo dell'amore. Vuol dire volere la salute e la felicità di ogni sua più piccola fibra. E invece c'è un mucchio di gente che usa questa formula ipocrita per significare: tu sei innamorata o innamorato di me, io no. E questo mi autorizza a farti vedere i sorci verdi. In francese, per esempio, non c'è questa distinzione. Volere bene non esiste, c'è amare e basta, che comprende tutto. Una madre a un figlio, l'amante all'amante, l'amico all'amico, la padrona al cane, dicono je t'aime. E si dice anche di un colore di un cibo, j'aime le rouge, io amo il rosso. Conosco solo 2 lingue e mi chiedo, solo l'italiano permetterà tali torture dell'ambiguità? Grammatica, sintassi, lessico, del dolore, delle vite buttate, dei ruoli fissi, ammanettati dalle parole. Cara Barbara, sento spesso in questo programma parlare del sesso come della forza che muove il mondo. Ed in effetti è un po' il simbolo del rapporto uomo-donna. Mi scusino coloro che non sono etero per la generalizzazione. L'unione intima di 2 persone che si amano. Ma sembra sia diventato il metro di misura con il quale verificare la qualità di un rapporto. Tu e tua moglie lo fate 2 volte al giorno? Allora siete affiatati. 2 volte alla settimana? Siete vicini alla separazione. 2 volte al mese? E perché continuate a stare insieme? Insomma, la cosa mi lascia un po' con l'amaro in bocca. Per questo ho deciso di scrivere. Sono un ragazzo di 34 anni, sposato da più di 11 anni. Per mie convinzioni sono arrivato al matrimonio vergine. Non mi sono mancate le occasioni, ero anche piacente in gioventù, ma avevo l'idea fissa che la prima ragazza con cui avrei fatto sesso sarebbe stata mia moglie. Questo desiderio non è dovuto solamente alla religione. Forse ero nauseato dalla cafoneria dei miei compagni di classe che esibivano le loro prede sessuali come trofei. Ho quindi conosciuto mia moglie. Bellissima, un sorriso che riempie gli occhi e ti cambia la giornata. Dopo 4 anni di rapporto a distanza, tra alti e bassi, problemi con i suoi gelosissimi genitori, riusciamo a sposarci. Lei 19 anni, io 23. Io l'amo più del mio stesso essere. Non penso mai a cosa vorrei prendermi, ma cosa vorrebbe avere lei in regalo. Se sto per più di qualche giorno senza vederla, divento triste. Ma quando stiamo insieme parliamo molto e di sesso ne facciamo ben poco, stando alle medie che vorrebbero vedere impegnati i coniugi in strenui attività copulative quotidiane. Non sento il bisogno di avere un'altra persona accanto. I problemi economici e di comunicazione esistono, Non è che siamo la coppia perfetta. Ma anche dopo un acceso scambio di opinioni, riusciamo sempre a trovare il modo di metterci d'accordo. A volte cedo io, ed a volte cede lei. Sono passati 11 anni, ed una mia collega, un tipo razionale con cui ho un buon rapporto, ma a volte un po' spigolosa, mi sbatte in faccia con tutta la crudeltà del mondo la sua visione. Tu non sei felice, ma credi di esserlo perché non hai mai provato dell'altro. Tu non sei felice. Ma ti rendi conto? Due persone, per amarsi, devono aver sparso sperma e secrezioni vaginali in giro per il mondo. Nel rapporto quotidiano tra me e mia moglie c'è rispetto. Quanti coniugi possono dire che si rispettano? Tra me e mia moglie c'è onore, cioè ci valorizziamo a vicenda. Quanti coniugi possono oggi dire questo? Io mi vanto del tesoro che possiedo e me lo tengo stretto. Posso ritenere la mia monogamia un tesoro? O devo essere obbligato ad avere la visione stereotipata imposta dalla società? Certo, ognuno è libero di fare come crede, ma come una volta ad essere puntati a dito erano i fedifraghi e i farfalloni, oggi sembrano esserlo diventati coloro che hanno intrapreso altre strade. Dobbiamo conformarci per forza a qualche movimento di massa per essere accettati? Samuele Bortolatto. Oh, grazie Samuele, bella lettera. Mi è piaciuta moltissimo. Ecco un anticonformista. Sono d'accordo. Ti ribelli al sesso come obbligo. Nulla è stato istituzionalizzato e pietrificato come ciò che per sua natura deve essere libero, l'obbligo del piacere. E poi magari fosse piacere, ma qui si tratta di una forma molto irritante del consumismo. Qualche settimana fa, qui al Faro, con Giuseppe Sansonna abbiamo fatto un'intervista a Eros moribondo, proprio offeso da tutta questa moltiplicazione forsennata che svuota di senso il sesso. Si è passati da un moralismo grettissimo, soffocante, e io che sono più vecchia di te me ne ricordo bene, e si è passati al moralismo opposto. Chi non consuma forsennatamente il sesso è un infelice. Abbiamo parlato spesso anche della castità come libertà, dell'amore angelicato, contro questa sottocultura di cui ti lamenti e che è l'incultura vigente. Questo immaginario bloccato, questo ostacolo a trovare la propria misura, perché ognuno ha la sua e fai bene a ribadirlo. Che te ne importa di quello che pensa la tua limitatissima collega? O vuole venire a letto con te, o, peggio, è di quelle che, facendo molto sesso, disprezzano chi ne fa poco. Quelli che ti vedono e ne sanno della tua felicità molto più di te e te la vogliono insegnare. Una che ti dice, tu credi di essere felice, pretende di contenere la tua mente, i tuoi gusti, la tua vita intera più di te. Quantomeno è occupazione abusiva del suolo esistenziale. E comunque è una forma di presunzione e di arroganza che non merita una confidenza da parte tua. Ognuno ha la sua temperatura erotica e i libertini moralisti sono accumulati dalla stessa noiosa mania. Vogliono convertire. Questi grandi libertini non sono appagati dalla propria iperattività erotica, no, gli rimane pure tempo per imporla agli altri. Sono dei veri bacchettoni, dei bacchettoni rovesciati, che è anche peggio. E a questo proposito, che ognuno ha la sua temperatura erotica, e hai questa fortuna che quella tua e quella di tua moglie coincidono, non sempre così. Senti cosa scrive Roberto, un uomo di 68 anni che sente ancora forte il desiderio per sua moglie e invece lei non lo sente per lui, pur volendogli bene. Felicemente sposato da 40 anni, ho un problema con mia moglie. Io sono ancora sessualmente attivo. Desidero ancora mia moglie, che è stata il mio primo amore e che è ancora piacente, nonostante i 64 anni portati bene. Da tempo lei non ha più la spinta sessuale. È molto tiepida. Intendiamoci, io non chiedo di fare l'amore all'amore come da ragazzi, ma insomma, almeno una volta alla settimana. Mi manca il calore del suo corpo quando lo stringo, il profumo della sua pelle che sa di grano, il caldo del suo seno quando mi abbraccia e si stende sopra di me. Le ho detto che ho ancora bisogno di lei e della sua fisicità. Il tempo passa e qualche tagliando dobbiamo pure farlo ogni tanto. Sarà che da piccolo ho sofferto la mancanza del contatto fisico materno, la mancanza di carezze e altre cose tranquillizzanti. Insomma, dopo 40 anni mi ritrovo un po' troppo solo. Soddisfare il mio desiderio in solitaria non mi piace. Mi demoralizza dopo tutto quanto ho passato con lei. Cercare un'altra donna? Ma io voglio la mia. Insomma, mi pare di stare in clausura. Aiuto. Chiedo a te aiuto. Roberto, Che grande e sconsolata tenerezza mi suscita la tua lettera. Roberto, un uomo della mia generazione, che chiede a me come convincere sua moglie a seguirlo in questa sua lunga primavera. Sai, Roberto, è vero che il sesso nasce e muore con l'uomo e nelle più diverse forme, infinitamente variabili. Il punto però è l'interpretazione, e il punto è il gusto personale. C'è chi nel tempo se lo lascia indietro come cosa di un'altra stagione, chi non lo sente, chi non sente questi impulsi forti, e invece c'è chi lo sente vivo come te. Tu poi non hai una pulsione generica, tu è proprio lei che vuoi, tu a lei sei legato, al suo corpo, e di lei che hai nostalgia. Io non so che dirti, perché più che stringerla a te, che si può fare se non riesci a trasmetterle ciò che senti? Io posso solo raccontarti l'episodio che mi scrisse tanti anni fa Enrico Lucchini, che oggi ha 95 anni e allora ne aveva 70, e la moglie coetanea. Avevano avuto una vita tiepidissima sessualmente. Lui aveva un amante, la moglie non lo sapeva e si era sempre accontentata, diciamo, di questo livello quieto di sesso. Un giorno lei trova una poesia erotica dedicata dal marito all'amante. Legge questa poesia e capisce che c'è un altro mondo che le è stato negato, che lei non conosce, e non dice niente a lui. No, gli dice che ha letto la poesia, ma non è che gli dice voglio anch'io, anche perché ormai sono vecchi, lei non pensa che sia più possibile, neanche lui, trovare un'intesa a quest'età. Quindi molto svantaggiati, no, rispetto a voi. Bene, una sera a cena, semplicemente la moglie gli stringe la mano, mettendoci dentro tutta la potenza del suo desiderio, tutta la potenza della sua curiosità di questa esperienza che non avevano mai fatto. Beh, scriveva Lucchini che da quel momento hanno conosciuto tardi una stagione di grandissima confidenza sessuale. Il punto è sapere trasmettere questa cosa. A parole non si ottiene nulla. Cos'era successo tra loro? D'un tratto l'immaginazione di lei aveva cominciato a camminare. Era nata. Fino a quel momento non era nata. Perché queste cose, Roberto, non si ottengono coi ragionamenti. Cioè, il letto non si ottiene a tavolino. La cosa più importante di tutte, ricorda, per l'erotismo, è l'immaginazione. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, non tutti gli amori casti sono belli. Alcuni fanno proprio schifo. Senti la mia storia. Lavoro con mio padre, piccola ditta di famiglia, 3 dipendenti. Uno di loro mi piaceva molto. Mio padre se n'è accorto e lo ha licenziato in tronco. Io per spirito cavalleresco divento amicissima sua, poi un po' di più. Lui mi dice subito che col sesso ha problemi e lo mettiamo da parte. Era così simpatico, anche se mi faceva pesare la sua sfortuna. 45 anni, madre a carico, casa orrenda. Brutto anche, quanto il mio eroismo richiedeva, con piccoli mali fastidiosi e un po' indecorosi sui quali si diffondeva con voluttà di particolari. Ma io niente. Cieca a tutte le sue sgradevolezze, io vedevo in lui solo una vittima dell'ingiustizia di mio padre e lo decoravo delle più belle virtù immaginarie. L'unica cosa che non mi piaceva di lui era una sua vecchia amica, un armadio coi baffi, brusca con me. Avrei detto gelosa, se non mi fosse sembrato grottesco. Lui nel tempo si rivela anche un imbroglione, mi chiede soldi in prestito, non li ridà, ma io pensavo solo all'unicità del nostro amore, finché la bomba. Scopro che è l'amante dell'armadio e che ridono di me. Sì, lui le diceva tutto di me, commentavano insieme, mai mi ha fatto intendere niente. Insomma, la sua donna è lei e io che voglio. Luana. Luana, leggendo la tua lettera pensavo, ma come povera l'offerta dell'amore, se perfino un tipo così viene ad essere conteso. Non c'è nemmeno più un posto libero, se perfino questo è occupato. Eh sì, non esiste un uomo così ignobile da non avere almeno 2 donne che soffrono per lui. E si svolgono delle storie bizzarre di nascosto nei nostri palazzoni dominati dalla TV e da internet. Mi meraviglia sempre quanti amori originali esistono, che straziano il cuore ai più sprovveduti, che poi sono i più provvisti rispetto alla vita, perché non fanno come gli altri. No, io ti capisco. Quando ero piccola, e chi voleva diventare attrice, chi acrobata, io volevo diventare santa. No, adesso lo so che fa ridere, ma aspiravo alla più controversa delle glorie, la più pericolosa. La mia santità sarebbe stata che io avrei fatto come nessun altro avrebbe fatto. Perché io lo vedevo fin da allora che la gente contava o non contava a seconda dei soldi, della posizione sociale, e orgogliosamente mi dicevo: io starò dall'altra parte. Poi ho un po' ridotto le pretese. È una grande presunzione pensare che tu colmerai i vuoti del mondo, questo ego vastissimo che c'è sotto una pretesa di santità. Perché alla fine poi ho scoperto che non ero santa, perché ho visto che il frustrato non è mai grato. Chi non è mai stato rispettato, come il caso del tuo ex uomo, chi non è mai stato rispettato è difficile che rispetti gli altri. E mentre tu spendevi per lui questa primavera abbagliante, lui invece, come un sorcio traditore di notte, ripassava le tue lettere con la sua amante Armadio, ridevano, lisciandosi i baffi tutti e due, e sghignazzavano di te che prendi ancora le cose sul serio. Io non sono un intellettuale mitteleuropea. Io sono di Umbertide, in provincia di Perugia, due colline e una chiesa. E quando qualcuno mi dice ti voglio bene, io ci credo, anche perché è così bello crederci. Ci hai creduto pure tu, adesso non starci tanto a piangere, che potrai avere una bella e vanitosa immagine di te come persona generosa. Oggi vorrei tornare su Donna di Piacere, questo mio romanzo pubblicato con Mondadori tanti anni fa, che è la storia di questo bordello nella collina Umbra alla fine dell'Ottocento. È martedì grasso, le ragazze hanno preparato una grande festa, aspettano i clienti, però cade tanta neve e gli uomini non arrivano, non sono ancora arrivati. La voce narrante è quella di Chiara, serva del bordello. Chiara, serva del bordello, che è stata una donna, una felice donna sposata per un certo periodo, poi la suocera ha cercato di avvelenarle, lei è scappata, ma scappata anche perché ispirata da Santa Mara, che è ciò che lei vorrebbe raggiungere. Arriva al bordello, guidata dai sogni di Santa Mara, e quando si rende conto di dove è capitata, dice va bene, forse sarà questa la mia strada, ma comincia ad avere molti dubbi. Si rende conto che sta perdendo tempo, che nessuna rivelazione ha accompagnato questa tappa della sua vita. E allora aspetta un angelo che le indichi la via. Era uno di quei pomeriggi di maggio, una domenica di poco lavoro, le api che battono i vetri, l'odore di magnolia stagnante. Oziosa sul letto, mi chiedo chi verrà oggi. E vorrei una grande emozione da principiante. Avanti il prossimo, che gli mangerò il cuore. E se gli ficco la lingua nell'orecchio, si raccomandi l'anima. Bene che sono morti per la mia lingua nell'orecchio. Beh, proprio morti no. Ma il cavalier Moroni dovette fare un salasso, se no ci restava secco. E dopo mi baciava le mani e diceva che non aveva più paura della morte. Il maggio porta i pensieri oziosi dell'estate. Non accadrà nulla oggi. Non accadrà nulla, forse mai. La nichilina suona un maldestro Chopin e con le dita callose arrotonda le note di Grazia Contadina. Il sole tinge le nubi, presagio di sangue. Che si debba, oggi di maggio, morire per mano di un cliente troppo sensibile, che ha freddo, anche se primavera, e ha bisogno del calore del sangue. Quando ecco al piano di sotto, scoppiò un baccano d'inferno. Diego il pellaio. Solo lui entra rovesciando le sedie e annunzia con un peto virile la sua fragorosa presenza. Solo lui parla di soldi fin dalla porta. Appena lo sento mi nascondo. Guai a scendere. Tante volte gli venisse in mente di chiedere di me, e proprio oggi, che ho la gola così piena di sogni. Il baccano aumenta. Le ragazze ridono, un'animazione insolita. Aprì uno spiraglio per osservare. Diego si tira dietro un giovanotto atterrito, pallido e assai bello. E sembra un principe in mano a un brigante, non un figlio con suo padre. Il giovane alzò gli occhi e li riconobbi. Sono quelli degli animali che mio padre portava al macello. Come un giovane bue, invano si trattiene sulla soglia. Diego l'ha portato a svegliarsi. Ha quasi 18 anni e ora sangue di Giuda. E guardate che pago, pago bene quella che me ne fa un uomo. Le ragazze fecero ressa. E che brezza, l'odore di agnellino tremante che manda il ragazzo. Davvero per tutte un bel dono il figlio del pellaio, che studia le scienze nella città di Venezia e non somiglia a suo padre. Ha modi dolci, da gran signore, e sì, il denaro, ma ognuna vorrebbe stringerselo al petto e per la prima volta farlo sospirare di piacere. Chi è pazza della sua bella gola, chi degli occhi troppo scuri. Civette, un po' intimidite, gli volano attorno per farsi a loro volta ammirare. La Goulon, sospirando ad essere vecchia per la gara, suona una gavotta. Quel giovinetto è troppo perfino per lei. Guarda un po' quella bestia di Diego. Ma no, non sarà figlio suo. La moglie l'avrà fatto becco con un marchese di passaggio. Come un dolce marzo, Emilio ha scompigliato i cuori delle ragazze. Ma ora si arrabbiano un poco, che rimane a occhi bassi e nessuna mostra di preferire. Beh, adesso basta. Dopo un po' anche i più paurosi ci prendono gusto. Vuoi sentire qua come per te mi batte il cuore? Gli acciuffa la mano da Mina, infilandosela in mezzo ai seni. Ma lui la ritrae e ostinato non la guarda. Guai a chi rifiuta Damina, l'invidiosa. Per la collera diventa molto cattiva. Si mette a scherzare con Diego. Ma non è che tuo figlio, per caso, eh? Vola la parola Finocchio, che sempre si accompagna di risate. Ma Diego non ride. Cala un pugno sul tavolo, rompe due bicchieri tra i vetri e grida che queste scemenze non le vuole sentire su uno della sua razza. E chi ne dice un'altra così le spacca il grugno. Ci fu un attimo di silenzio. Ora tutte le ragazze hanno capito che Damina ha colto nel giusto. Ed un tratto un nemico diventa il ragazzo che poco prima tutte bramavano. Facce cupe attorniano Emilio, senza più tenerezza. Così bello e non vuole le donne. Ama, la vedrà. La sua grazia l'eccita ora all'oltraggio. Tacco il pianoforte della Goulon su una nota stonata. E già Damina e la Nichilina si avvicinano a Emilio con passo di belve. Già Elvira punta arrotandosi le unghie e la patta dei pantaloni. Si prepara una notte di terrore. Caro, hai paura di noi? Ebbene, stanotte la caverna ti inghiottirà. Stanotte le ragazze si abbandoneranno a riti disgustosi, riservati a chi non le ama. Preparate gli sfregi e i gesti che fanno arrossire. Saremo immensamente volgari per avvilire il pudore di Emilio. Suo padre paga perché si è punito? Tremi, piccolino, muori di paura? E solo perché ti fissiamo tutte insieme in quel posto? Questo è niente. Il peggio deve ancora venire. Stanotte, bocche di gatte smisurate e orchesse senza onore succhieranno vivo Emilio. Tu ci disprezzi e noi ti ridurremo un misero fantino e te lo mangeremo come un dolcetto facendo hum hum buono. La vendetta, più l'oro di Diego, le rende accanite. Chi lo tira per un braccio, chi scavalcando la compagna cerca di piantargli la lingua in un orecchio, ma manca il colpo e la lingua vibra nell'aria come una vipera assente. Il padre tracanna e ride, la gara lo diverte. La guardiana del faro. Stavo leggendo un brano dal mio romanzo Donna di piacere, che si svolge in un bordello umbro alla fine dell'Ottocento. Chiara, che non è ancora diventata la serva del bordello ed è una ragazza della casa, si nasconde perché vede arrivare questo cliente terribile, violento e volgare, che è Diego il Pellaio. Questa volta Diego si è portato dietro un fanciullo bellissimo che è suo figlio e, come dice lui, l'ho portato a svegliarlo. Chiara, che si è nascosta per non avere a che fare con lui, da uno spiraglio segue la lotta accanita che le ragazze fanno per accaparrarsi il figlio di Diego e avere da lui una grossa ricompensa. Dallo spiraglio guardavo Emilio e mi parve che avessimo già pianto insieme, con la testa nascosta, per la stessa ragione. Mi buttai allo scoperto, sfidando Diego. Per sottrarlo alle furie divenni più avida e triviale di qualsiasi puttana sulla terra. Mi feci largo a spintoni, una gomitata da Mina, un pizzico Elvira e la Nichilina una ginocchiata dove meglio la sente. Mi trovai al fine davanti a Emilio, che per la prima volta mi vide, accesa dalla lotta per una manciata di soldi. Era stretto alla parete, avevo un lento respiro da vittima. Mi sentii perduta. Rimasi incapace di muovermi e temo che finirà qui la mia commedia. Come posso offendere questo giovane? Ma Diego mi guardava. La mia esitazione l'aveva messo in sospetto. Mi restava solo un attimo per vincere sulle altre. E allora morsi Emilio davanti a tutti, la bocca, che sanguinò. E lui, con un gesto di pudore, si portò la mano al labbro e io, con fare da puttana che mandò in solluchero Diego, lo afferrai per un braccio portandolo via fra le altre ansimanti che scoppiano in velenose maledizioni per essermi impadronita di quella buona preda. Lo portai nella mia camera, chiusi a chiave la porta. E io, che sono stata con 200 o 300 uomini, non sapevo che fare davanti a quel ragazzino. E tutti e due ci guardavamo fortemente imbarazzati, le unghie. Finché trovai la forza di dire «Si accomodi!» Ma lui rimase in piedi. «È arrabbiato con me perché l'ho morsa?» Fa segno di no, ma segue le mie mosse, come se io dovessi balzargli addosso da un momento all'altro. Ho vergogna. Per la prima volta m'accorgo della mia tana di donna di piacere. E vorrei che non ci fossero macchie sul letto, nelle pareti, che i fiori non fossero così secchi. Per accogliere Emilio ci vorrebbe la stanza più bella del paradiso. Col piede spinsi il vaso da notte sotto il letto, sperando che non vedesse. Ma lui vede tutto e teme che un assaggio fu il morso e si aspetta che io finisca di divorarlo. Allora, senza osare guardarlo, dissi «Senta, lo so che non ne ha voglia, che suo padre l'ha portata qui per un orecchio. Lo conosco quello, vuole che si faccia sempre a modo suo. Ma se lei è d'accordo, freghiamo quelli là fuori, freghiamo suo padre, le ragazze e la padrona. Faremo solo finta di fare l'amore. Staremo dentro il tempo necessario. Basterà far sentire qualche rumore di letto, qualche risata. E poiché qualcosa mi stringe la gola, parlo da puttana e gli dico «A me che mi importa? Io i soldi li prendo lo stesso e lei si risparmia il disturbo». Gli dissi «Stia comodo, faccia come a casa sua». Ma lui era a disagio. Aprì la finestra. Entrò il vento nella stanza, mentre dietro la porta si sgrana il rosario della maldicenza. Emilio ha un amante a Venezia, dal quale il padre lo ha separato con grande scandalo. Non si sono più visti, e da allora lui non ha altro pensiero che fuggire per raggiungere l'amico. Ma il terrore del padre lo paralizza. Vive a casa sua come un prigioniero, elaborando piani di fuga, ma non farà mai niente. Emilio è un debole. Emilio si farà schiacciare. Si sedette sul letto. Bagnai un panno e mi chinai davanti a lui per lavargli la piccola ferita. Mi lasciò fare, ancora un po' timoroso, ed ecco, appena il panno ebbe raccolto una goccia del suo sangue, «Signore, pietà!» Dalla sua testa, dagli occhi e dalle orecchie uscirono raggi di luce accecante che si irradiò per tutta la stanza e ne sfavillarono il bidet e i fiori secchi e tutte le miserie della camera sembrarono assunte in cielo. Da quel momento non vi fu che bene fra noi. Chiara gli racconta una storia e lui si addormenta finalmente fiducioso. Lo guardavo dormire e pensavo, io non vorrò mai più, dopo questa notte, mai più. Al suo corpo che dormiva offrii il mio e gli giurai che nessuno l'avrebbe più sfiorato. In quel momento si svegliò e ci guardammo, stupefatti per la troppa intensità. Dal turbamento ci scosse il chiasso fuori dalla porta. Le ragazze gridavano, ma che gli stai facendo? Apri, Chiara! Allora, cos'è questo silenzio? Te lo sei mangiato? Ah, i rumori, me ne ero dimenticata. Salto sul letto, faccio cigolare le molle e grido, come mai griderò per un uomo. Sì che tutto tace al bordello, perché il mio grido trionfi. L'amore che c'è nella mia voce le disperde, atterrite. Fuggono in un frullar di gonne in fondo al corridoio. Soffoco il riso e anche Emilio ride. Di me, che certo fu ridicola nel simulare il fatto. Ma sai, Emilio, non gli dirò mai. Questo molto mi piace. Far ridere chi amo. Aprì al fine la porta. Emilio passò fra le puttane in ammirazione, ammutolite dalle mie grida. Suo padre ebbe uno stolido sguardo di fierezza per il figlio e tra me e il ragazzo vi fu un segreto sorriso. La nostra piccola beffa aveva creato un legame fra noi. Suo padre mi gettò una borsa che fece stralunare le ragazze col suo tintinnio. Mentre la prendevo al volo, Emilio disse «Tornerò». Ma l'avrà detto per fare contento suo padre. E sarà solo il finale della nostra burla? Il carro era già in fondo alla strada. Tornerà. Mai, mai, mai, dicono le ruote che lo portano via. E lei è convinta adesso del fatto che debba essere casta. Che mai più un uomo. Mai più. Da oggi Chiara sarà casta. Chiara, ce la farai? Chiara, sei pronta? Certo, casta al casino si deve ancora vedere. La cosa più semplice sarebbe andarsene, ma io di qui non me ne voglio andare. E mi venne lietissima l'ispirazione. Diventerò serva. Io non dovrò più dire io. Esisterò solo come strumento di cose. E mi diranno stira e lava e zappa. Ma non mi diranno più come devo essere. E nessuno mi metterà più le mani addosso. Io resterò fedele a Emilio per sempre. Certo, bisogna guadagnarselo il casino, il diritto a essere casta, quando c'è ancora chi paga per te. La mia vita è nelle mie mani. Bisogna che esse valgano più del mio corpo. Avanti, Chiara, lanciati in avanti, come sempre nel vuoto. O morrai. Le puttane dormono. Ho tutta la notte per conquistare il titolo che mi spetta. Come una regina per il suo regno, lotterò per diventare serva del bordello. Cominciamo dagli angoli. Metto tutto il mio talento nella pulizia e nell'acconciare con grazia ogni cosa, gli ottoni e la ringhiera perché risplendano. In quella notte, un estatico amplesso divenne la mia pulizia del casino. Vediamo se Eros abita ogni minima cosa o solo il sesso. E lotto contro l'antica sporcizia. A colpi di invenzione e di strofinaccio traggo l'anima dalla casa. Non sono stanca, ma come ebbra. È mattina. Delia, la contadina che di nascosto del marito un poco ci aiuta, stamani non è venuta. Bene, anche questo è propizio. Appena le ragazze chiamano per le prime cure, è con sorpresa che invece di Delia, Chiara piomba in camera loro, come per gioco. E a chi tira su una ruga, e chi consola con una nenia, al mattino le puttane sono piuttosto bambine. Per l'una ho il filo rosso, per l'altra il sorsetto di cognac. In un solo mattino sono diventate indispensabile e quando dopo la toeletta uscirono dalla stanza un di rotonda sorpresa ristette sulle bocche, che il bordello splendeva del lavoro notturno come la bocca di un'imperiale sgualdrina. Madame Goulon, ferma sulla porta, esclamò: tu, Chiara, sei una buona puttana, ma come serva sei un portento. Poi timidamente, pronti a volgerla in scherzo se mi fossi offesa, mi chiesero se per un po' volevo sostituire nei lavori di casa la Delia che s'era ammalata. Dicendo di sì, con segreta esultanza abbassai la testa come per ricevere la corona. In una sola notte, incoronata serva del portello. Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.